Indie Media, Ravenna, 13 ottobre 2012, voci dal corteo Notav contro la CMC. Noi siamo della Valle di Susa e siamo qui perché vogliamo difendere la nostra valle dalla distruzione, perché la nostra valle è già lassù in Clarea, è già distrutta. Però se si continua così si distrugge tutta la valle. E perché quindi a Ravenna? Perché la CMC sta lavorando su. La CMC nel 1901 era nata come società cooperativa, no? E personalmente io sono anche qua proprio per richiamare la CMC al suo spirito originario, che è quello della cooperazione, non quello della competizione sfrenata come è il modello attuale di sviluppo. Non so se lo sa, ma con la CMC oggi sui giornali locali si sono schierati anche l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani di Ravenna, per bocca del suo presidente, e la Lega delle Cooperative. Adesso dico una cosa seria all'ANPI: c'è lavoro e lavoro. C'è lavoro e lavoro. C'è lavoro e lavoro. C'è un lavoro che distrugge e un lavoro che crea. Anche le SS lavoravano. Questo dico all'ANPI, anche le SS lavoravano. Con questo principio. Anche l'AMPI? Anche l'AMPI, anzi. Guarda, io sono iscritta all'AMPI e questa cosa mi dispiace tanto. Quello che fa la CMC oggi va contro tutti i principi per i quali i partigiani sono morti. L'Associazione Nazionale Partigiani Italiani non è cementiferi italiani o becchini italiani. Quello che accade in Valsusa, quello che accade a Taranto, quello che accade in altre parti d'Italia sono storie di malattie. Sono storie di istruzione, di prevaricazione, non sono storie di lavoro. Vengono su in Val di Susa a vedere il lavoro che stanno facendo. Anche in Val di Susa c'erano i partigiani e hanno difeso il territorio, hanno dato il sangue per difendere il territorio. Allora l'ANPI pensi anche a quello, il territorio che viene devastato da questa ditta e dai lavori che stanno facendo. Ti vedo con un cartone con dentro delle bustine, che cosa stai distribuendo? Abbiamo pensato di fare dei fogliettini, delle bustine con all'interno delle frasi che sono sull'ambiente, sul valore che deve avere la crescita, il progresso, così. Abbiamo messo dei semi, a simbolo appunto della vita, il semine della vita, e dietro c'è il logo degli organizzatori della manifestazione e il sito, importante il sito. Li abbiamo fatti da dare ai ravennati e ai negozianti, perché abbiamo visto nei video che sono stati fatti nelle interviste prima di questa manifestazione che hanno, come dire, una diffidenza verso chi manifesta, al di là che siano notavo oppure no, e soprattutto che pensano che la lotta sia degli altri ma non loro. Riguarda tutti, anche come vengono spesi i soldi riguarda tutti. Cioè, come la TAV costa tot, ok, ma la paghi anche tu. Non è che riguarda qualcun altro, non è NIMBY, la paghi anche tu che non abiti in Val di Susa. I 35 operai edili che intorno al Novecento hanno costituito questa cooperativa che adesso si chiama CMC, sono andati dal notaio e hanno fondato questa cooperativa. Si stanno rivoltando nella tomba i fondatori della CMC, che è diventata una delle più grosse ditte capitalistiche che esistono, e continua a chiamarsi cooperativa abusivamente, perché non lo è, non lo è più. Ma perché? Perché benefici ancora la tassazione agevolata. La tassazione agevolata e tutti i benefici che hanno le cooperative. E questo è proprio la cosa più bassa che possa esistere, partiti da operai, arrivare a fare queste cose qua. Te lo dico io perché sono di Ravenna, è una potenza. E i suoi operai lavorano come? Sotto costo, perché loro pagano peggio degli altri. Te lo dico. E lei la sostiene? No, non interessa un cazzo, ma di quelli lì. Sono tutti ladri, peggio degli altri. La CMC? Sì. Scusi signora, è di Ravenna lei? Sì. Posso fare una domanda? Beh. No, però non so neppure dire niente io. Sai il tema della manifestazione? Sì, dico per la CMC, però non sapevo neppure che la CMC fosse a lavorare là nella... No, però non so se che colpa ne ha lei, avrà vinto l'appalto, non lo so. Il finito l'acquista con la CMC, anzi no, fa di più, organizza i caschi blu. Il finito l'acquista con la CMC, anzi no, fa di più. E poi non dimentichiamo che la CMC dietro di lei c'è il PD, non dimentichiamo quello, appunto si deve ricordare il perché la CMC fa un lavoro che non ha fatto un concorso, non ha fatto un appalto, nulla, gliel'hanno assegnato, quella è un'assegnazione politica. La CMC aveva vinto l'appalto per il lavoro di cunicolo che doveva partire da Venaus e poi con una mossa un po' strana gestita dal comitato interministeriale del CIPE presieduto da Cosentino tra parentesi, hanno stabilito che l'appalto che era stato dato per Venaus poteva andar bene anche per la Val Calarea, anche se si tratta di un percorso diverso della galleria, di un comune diverso, di una valle diversa, forse addirittura il diametro della galleria è anche diverso, però hanno detto che andava bene così e quindi un appalto vero e proprio, una gara d'appalto non è stata fatta. Non c'è stata. Hanno affidato il lavoro a chi aveva vinto la gara precedente. Ufficialmente la CMC è entrata nel cantiere e da quel momento lì si è visto anche le opere preparatorie sono andate avanti a sprombattuto. Stanno aprendo il cantiere nella zona dove dovranno cominciare a scavare per il cunicolo esplorativo. Quindi fanno le strade d'accesso, fanno un piano su cui appoggiare il materiale di risulta, insomma stanno facendo i lavori preparatori per cominciare il tunnel, che però è il cunicolo esplorativo. Hanno spianato tutto lì dove c'erano castagneti, e boschi, e massi, hanno sbancato tutto, hanno spianato. E adesso si vede il punto preciso dove imboccheranno a fare questa galleria. Prima una signora mi diceva, ma tanto lo sappiamo tutti che loro non la faranno mai, si fermeranno al cunicolo sicuramente. Quello che pensate anche voi? I soldi sicuramente non ci sono, però questo non è detto, perché vede, la politica che seguono questi gruppi di pressione è quella di mettere i piedi avanti, cioè per mettere le premesse per chiedere altri soldi. Se lei riesce a impiantare dei cantieri, se lei riesce a fare in modo che qualche centinaio di persone derivi il proprio salario da questi cantieri, dopodiché quello diventa un elemento di pressione per ottenere sempre nuovi soldi. Gli esperti dei trasporti dicono che questo lavoro, questa nuova linea non serve. La vecchia linea è sottoutilizzata del 35%. Passata la crisi, che gli economisti dicono che non passerà mai più perché c'è una riduzione dell'economia, ci sarà un surplus di possibilità di muovere le merci, ma le merci non ci saranno. I materiali di risulta degli scavi sono pieni di uranio e di asbesto, cioè di amianto. Non sanno dove metterli. È tutta una porcheria sta TAV. Inutile e che pagheremo nei prossimi 30 anni con le tasse. Tagliano l'assistenza sociale ai disabili, gli asili, gli ospedali, però comprano dei cacciabombardieri, fanno delle opere inutili. È tutto uno spreco. Volevo solamente, visto che siamo qua davanti alla CMC, informarli che oggi abbiamo divulgato una notizia, se non è vera poi mi querelerete, che voi avete tenuto nascosta, top secret, ma l'abbiamo divulgata, e cioè che il muro della vergogna, il muro dell'apartheid fra Israele e Palestina, commissionato dagli israeliani, è stato costruito da voi per l'80% del muro. Questo è un crimine contro l'umanità che avete fatto. Sappiate che la gente adesso lo sa.